Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Oggi vi parlo di un libro che è diventato un caso editoriale in Italia perché ha scalato le classifiche pur essendo l'opera prima di una giovane scrittrice, Lorenza Ghinelli. Si intitola Il divoratore, sottotitolo Non guardarlo, non cercarlo, se gli credi lui ti vede, pubblicato da Newton & Compton. Si tratta di un thriller psicologico. Ne parliamo con l'autrice, Lorenza Ghinelli, appunto. Lorenza, partiamo dal piccolo protagonista di questo romanzo. Chi è Pietro? Pietro è un ragazzino di 14 anni, autistico, con la sindrome di Asperger. Per intenderci, chi ha visto Rain Man o chi ha letto anche Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte può farsi un'idea della sindrome. È un particolare tipo di autismo che mi affascina, che ho avuto modo di studiare a fondo in questi anni. E ho scelto un ragazzino autistico per la mia storia perché è l'unico testimone oculare delle sparizioni che nel libro accadono. Quindi il divoratore, no? Fa sparire un gruppo di ragazzini e Pietro riesce a vederlo e a disegnare quello che vede, ma non viene ritenuto attendibile, quindi non viene ritenuto attendibile perché quello che disegna non viene considerato reale. Ecco, i bambini autistici in genere hanno un modo particolare di comunicare, per esempio attraverso i disegni, ma perché nessuno fra gli adulti crede a questo bambino? Da una parte non riescono a credergli perché appunto le cose che raffigura non vengono ritenute possibili nel mondo reale, disegna delle cose che sono fantastiche, che hanno una connotazione paranormale. Pertanto, ovviamente, la scientifica, la polizia e chiunque, no, nel libro decide di non credergli sistematicamente. La sua educatrice è l'unica, invece, a dire: guardate che i ragazzi autistici non hanno capacità simbolica, quindi quello che disegna deve essere reale per forza, per quanto sia scomodo, per quanto sia improbabile. E quindi decide di credergli, anche perché il disegno del ragazzino evoca e scatena in Alice un rimorso che lei ha dimenticato. Quindi, per poter aiutare Pietro e per poter scoprire il mistero della storia, lei deve ritornare alla sua infanzia e riprendere qualcosa di estremamente doloroso che ha dimenticato. Quindi la stessa Alice, la stessa educatrice, ha degli incubi, insomma, del suo passato che ritornano. Sì, sempre più frequenti man mano che si avvicina proprio al cuore, no, del problema. Quindi è un rimorso che comunque diventa violento nel momento in cui Alice decide di affrontarlo, no, come un mostro che diventa ancora più terribile, però deciderà comunque di andare avanti. Perché hai deciso di rendere un bambino autistico protagonista del tuo romanzo? Perché da una parte una delle caratteristiche degli Asperger, degli autistici in generale, è quello di non avere puntamento oculare, non riescono a fissarsi su magari la persona che sta parlando loro. E mi interessava che invece l'unico ad avere gli occhi esattamente dove serve, quindi per poter veramente essere un testimone oculare, fosse un ragazzino considerato incapace di avere l'attenzione dove è richiesta, quindi che fosse un, tra virgolette, non normodotato. Questo è un libro pieno di incubi, come si può intuire anche dal titolo Il divoratore. Quanto dei tuoi personali incubi c'è in questo libro? Insomma, come è nata questa idea? Come hai deciso di svilupparla? Il divoratore è una, diciamo, una figura che abita il mio immaginario da quando sono bambina, che detto così fa un po' specie, però è vero. E ho semplicemente deciso per la prima volta di sporcarmi le mani fino in fondo, nel senso, ho provato a raccontarlo in tante forme, questa creatura che poi si nutre di paure sostanzialmente, poi ovviamente non voglio svelare più di tanto, però e per la prima volta ho detto: vediamo dove mi porti, proprio al divoratore, no? Vediamo che tipo di storia scateni. Quindi la cosa più difficile è stata non tanto entrare nelle psicologie dei personaggi, perché per quanto siano differenti le sento, no? Le mie moltitudini, le mie contraddizioni in scrittura riesco a ricompattarle. La cosa difficile per me è stata quella di non fare un passo indietro, quindi non ritrarmi da questa sfida, no? Non sottrarmi, ma quella di... Ma c'è qualcosa di autobiografico in questo libro o no? Io penso, lo dico spesso in questo senso, ritengo che sia opportuno, diffido degli scrittori che dicono non c'è niente di autobiografico. C'è sempre una parte, poi ovviamente lo stile, la tecnica, la narrazione in sé poi pretende anche un mestiere, quindi poi nel momento in cui tu applichi, no, la scrittura, applichi uno stile, allora riesci in un certo senso a renderti universale e a non raccontare solo quelle che sono le tue storie, che in fondo poi non interessano, no? Però certo, una componente autobiografica c'è ed è quella che mi permette di dare alla storia un'impronta reale che possa comunicare un po' a tutti. Come definiresti il tuo romanzo? Un thriller? Un horror? Come... Io sono sempre restia a catalogare, no? Romanzi, forme d'arte in generale e quindi anche poi persone, nel senso che penso che le storie, quelle vere, debbano trascendere il genere. e quindi sicuramente ci sono dei momenti in cui il lettore potrà ritrovarsi in qualche genere, però vivrà dei sensi, secondo me, di spaesamento, perché poi mi piace rompere e frantumare le regole. Questo è un romanzo che ha avuto un grandissimo successo non solo in Italia, perché abbiamo visto in classifica da diverso tempo, praticamente da quando è uscito, nella pubblicazione di Newton & Compton, perché lo ricordiamo era stato pubblicato nel 2008 da una piccola casa editrice. Certo, sì. Ecco, è avuto anche un successo internazionale, perché all'ultima fiera di Francoforte, che è l'appuntamento editoriale più importante per chi fa questo mestiere, per chi lavora nell'editoria, è stato, i diritti di questo libro sono stati venduti a 5 paesi. Insomma, un successo notevole, te l'aspettavi? No, nel senso che alla fine tutte le volte che scrivo, no? che creo una storia, non penso mai al mercato. E questo credo che sia un ingrediente importante per la buona riuscita di una storia. Cioè il fatto che l'artista, lo scrittore, si concentri su quello che fa, su quello che deve fare e non sul resto. Il resto poi, se sarà il caso, verrà da sé. E nel caso di Francoforte sono stata molto fortunata, e perché sono stata sostenuta e sono sostenuta tuttora da una casa editrice che crede in quello che faccio. Quindi poi anche quando credi tanto in una cosa, anche venderla e spingerla diventa molto più semplice. Carmen Prestia, che è stata la ragazza che si è occupata dei diritti esteri, ha fatto in questo senso un lavoro egregio, ce ne ha parlato con tanto entusiasmo, quindi evidentemente è stata, e quindi è riuscita virale a piazzare, come sì, si dice in gergo, il tuo romanzo, che sarà letto quindi anche all'estero. La tua professione, tra l'altro, è molto vicina a quella di scrittrice, nel senso che tu fai la sceneggiatrice. Io da un anno collaboro con la Tau2, quindi come editor e sceneggiatrice. Stiamo creando una nuova fiction che si chiama Il Tredicesimo Apostolo e andrà in onda per Canale 5 da ottobre dell'anno prossimo, quindi una cosa nuova per la televisione italiana. E sarà proprio più anche lì paranormale, un mystery, quindi molto fuori da quello che siamo abituati di solito a vedere in televisione. In Italia, si sa, ci sono molte persone che hanno il cosiddetto libro nel cassetto, no? E desiderano vederlo pubblicato. Tu, da esordiente, come sei arrivata alla pubblicazione? Per gradi, veramente piccoli passi, nel senso, innanzitutto ci deve essere la voglia di farlo uscire dal cassetto, quindi comunque sicuramente cercare quelli che sono gli editori che consideri seri, quindi parlo anche di piccoli editori non a pagamento, ovviamente, quindi editori che credono, sono disposti a credere in quello che una persona fa. E poi da lì ho avuto la fortuna di incontrare Gordiano Lupi al tempo, che credette nel mio lavoro e mi aiutò, e che poi pubblicò con, esatto, una piccola casa editrice il tuo letterario, romanzo. Sì, nel 2008. Poi da lì ho deciso di fare il salto, perché poi una casa editrice, per quanto sia seria, no, poi di fatto non può permettersi, no, di portarti in tanti posti. E da lì decisi, anche d'accordo con l'editore di allora, di cercare degli agenti, di cercare un mercato più ampio, e quindi andai sempre per gradi, sono stati piccoli passi, no? Uno di seguito all'altro, e alla fine oggi sono veramente contenta. In questa seconda versione, diciamo, Il Divoratore è identica alla prima pubblicazione, o ci sono state delle modifiche? Ci sono state delle modifiche, penso anche abbastanza impercettibili per le persone che poi hanno per dire letto anche, no, la prima edizione del foglio letterario. E ci sono state sicuramente, ho fatto un lavoro di editing con Alessandra Penna, abbiamo epurato il libro da quelle che erano delle ingenuità, quindi magari delle parole abusate, nel senso la stessa parola che magari ritornava in tante situazioni, sono proprio ingenuità quelle che sono state tolte. La cosa bella, che io apprezzo anche della casa editrice, è che ha lasciato veramente intatto il mio stile, perché questa è la condizione, cioè lo scrittore deve mostrarsi al pubblico per quello che è, cioè per quello che ha scritto, altrimenti diventa altro. Secondo te Il Divoratore, perché, a che pubblico è rivolto? Insomma, chi è che può appassionarsi a un libro così? Io penso che Il Divoratore abbia tanti livelli di lettura, nel senso, sia anche il ragazzino può trovarlo affascinante perché evoca dei mondi che sono comunque orrorifici, se vogliamo, per chi invece ha anche magari qualche strumento in più, che sono anche a che fare con la pedagogia, con la psicologia, si può divertire tanto, perché è un romanzo che si nutre di simboli, le sindromi che sono, insomma, le sindromi di cui ho parlato sono sindromi che conosco, e quindi penso che anche la persona adulta che non ama il genere possa restare in un certo senso stupita, perché, come dicevo, il genere viene frantumato, è una storia, quindi penso che il target sia veramente ampio. Grazie a Lorenza Ghinelli, autrice di Il Divoratore, pubblicato da Newton Compton Editori. Anche per oggi è tutto, vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri su www.radio24.it e ci trovate anche su Facebook. Un saluto da Alessandra Tedesco.